Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, anche da parte di Giorgio De Luca in redazione e Valeria Bernardi in regia. Oggi sono solo, almeno fisicamente, non vi preoccupate, in questo studio, pronto a parlare con voi e con tutti gli ospiti che verranno. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666, se avete dei pensieri da scrivere sulla nostra pagina Facebook, magari rendiamo anche pubblici, e seguiteci sempre su Twitter. Sbrigata la corrispondenza, passo alla cronaca che ci dà i risultati della Serie B. Partite appena finite con Ascoli Varese 0-0, ieri lo ricordo, anche qui per la cronaca, l'1-1 tra Sampdoria e Juve Stabia ieri sera, in un periodo in cui di calcio ce n'è così tanto da essere quasi troppo, anche se oggi il sabato del Villaggio Globale propone un Real Madrid Barcellona, che è la partita più bella del mondo e non ci sono molte discussioni. Ebbene, torna ai risultati di B: 0-0 tra Ascoli e Varese, Cittadella batte Regina 3-2, Grosseto Modena 1-1, il Gubbio batte 1-0 il Padova, il Crotone vince 2-0 a Nocera, Sassuolo batte Livorno 2-1, nella partita di cartello il Torino seppellisce Pescara di Zeman 4-2, Bascià Vives doppietta di Sgrigna contro la doppietta di Immobile per il Pescara, Verona batte il Milan F 1-0, Vicenza batte Empoli 1-0. E domani alle 12.30 non c'è la Serie A, che oggi gioca in maniera copiosa, 4 anticipi, come ben sapete, a partire dalle due gare delle 18 di cui poi parleremo. Gioca la Serie B domani con Brescia-Bari, Torino 41, Verona 37, Sassuolo 36, Pescara 33, Padova 31, Regina 29, Varese e Grosseto 27, via via tutte le altre. Per chiudere con Ascoli 12, Nocerina 15, Gubbio Modena 17 e Andrea Zorzi. Buonasera, ciao Andrea. Ciao Carlo. Oggi non puoi... Sto per seguire il saggio di mio figlio che fa di Numa. Shaolin. Giorno mi racconti Shaolin. Anche che cos'è. È il nome del tempio, mi sono informato se mancava il caso. Perché sapevi che te lo chiedevo. È il nome del tempio nel quale hanno un po' codificato il Kung Fu. Sì. Da lì in avanti poi ha avuto mille altre diramazioni, come spesso avviene con le arti marziali, sì. Ma lo Shaolin è considerato un po' l'università di questa attività. Devo dire molto interessante, molto bella, molto bella, perché molto conservati i ragazzi, poi fanno tutte le età. Kung Fu Panda insegna, insomma. Credo che loro avrebbero nei confronti di Kung Fu Panda qualcosina da ridire, ma in ogni caso sì. parliamo anche di questo. Senti Andrea, per andare su altri temi, mentre stiamo aspettando, tra le altre cose di cronaca, alle 17.30, non so se di questo sei informato, se no te lo dico io, lo dico a tutti, Federica Pellegrini nella 400 stile libero finale degli europei in Basca Court. Tra l'altro ieri Federica Pellegrini è entrata in acqua in una specialità che non è esattamente la sua, quella dei 50 nella staffetta, e ha trasformato la squadra italiana in una squadra da medaglia di bronzo. Federica Pellegrini, caro Andrea, la stiamo aspettando alle 17.30 per questa finale dei 400 stile libero, che si conferma alla fine refrattaria a tutto quanto, Andrea, anche al fatto di essere una mangia allenatori. Sì, lei ormai davvero sta imparando a convivere con un peso mediatico e non solo, non indifferente. Gli articoli che escono su di lei sarebbero in grado di stroncare un toro, nel senso che talvolta sì. Le critiche sono pesantissime, e però questa ragazza evidentemente ha fatto dei passi da gigante. E io ricordo, con te ne ho parlato quando c'era quella polemica po' artificiale, un po' no, sul portare o meno la bandiera, e però ho l'impressione che almeno in piscina lei riesca a scrollarsi di dosso un po' tutto. È vero anche che proprio in piscina ha subito le presure delusioni, perché talvolta insomma non riusciva più a nuotare, a stare lì. Però spero davvero che abbia trovato la sua strada. È però su un versante un po' scosceso, un po' fragile, perché è sempre al limite, è sempre su tutti i giornali per varie ragioni, in alcuni casi sportive, in molti altri casi per questioni personali che potrebbero essere anche un po' più private. Andrea, con te inquadro come sempre i temi che ci ha lasciato sul tappeto la settimana, ad esempio quella della festa napoletana che non è ancora finita. Certo che ritrovarci il Napoli come portabandiera delle squadre italiane in Europa, perché questo dice la Champions League in un girone terribile, la squadra italiana che ha fatto più punti fin qui in questa edizione della Champions, beh, a me piace, non so a te. Ma a me moltissimo, anche perché poi Napoli è una di quelle città che trasforma tutto ciò che accade, c'è una forza, una passione nel bene e nel male, quindi non è solo un inno al valore di ciò che hanno fatto, ma a Napoli quello che succede ha una forza diversa, e quando le cose vanno bene come adesso, quando vanno benissimo come va in Champions League, lì accadono situazioni inaspettate. È un po' sorprendente, che devo dire che, guardando dall'esterno, De Laurentiis e Mazzarri stanno facendo un lavoro straordinario. Non so quanti avrebbero scommesso su questo risultato. Sono bravi, scelgono bene, gestiscono bene la squadra, fanno gli acquisti oculati, riescono a mantenere alto il livello di gioco, cioè, voglio dire, a livello di intensità più che altro. È questo che a me sorprende un sacco. Tra l'altro, oggi Mazzarri, poi sentiamo anche la sua voce più tardi, ha chiesto lo stesso livello di adrenalina domani con il Novara rispetto alla Champions League. Quello sarà un po' più complicato, secondo me. Magari ho qualche dubbio sul fatto che Mazzarri veramente si sia fatto espellere per dare l'adrenalina in più ai suoi ragazzi. Questo probabilmente è, come dire... parte, sai, è stata la settimana che dei temi un po' più pruriginosi. Come fai a credere a quell'1-7 molto chiacchierato del Lione sul campo della Dinamo Zagabria, e gli occhiolini, e il difensore che ammicca, e Platini che dice: beh, la Dinamo Zagabria in fondo ha una difesa debole, sapendo benissimo anche lui che si trattasi di biscotto francese. Di questo abbiamo parlato tante volte, io e te, lo sai. Sì, è così. Poi c'era sulla Gazzetta, c'era riportata una serie di frasi di Prisco, sì, in cui si parlava ancora non di un biscotto, ma di una frase famosa legata al Milan quando Marsiglia se ne andò, sì, e disse: ah, c'è lo sponsor per quell'evento, l'Enel è pronta a sponsorizzare tutto ciò che riguarda quell'evento, quella serata. Però anche lì cambio discorso, però davvero quelle 10 battute o 15 che ha riportato oggi di Prisco fanno tornare anche lì un po' di nostalgia rispetto alla qualità delle battute che si facevano qualche anno fa. Sì, non c'è dubbio, anche nella pallavolo ne abbiamo discusso tante volte con te, insomma, questa dei calcoli perversi è qualcosa che esiste, ora non negli ultimi mondiali, però quante formule sono state cambiate per rendere almeno un po' più difficili questi calcoli. Poi detto questo, devi anche metterti nelle condizioni di poter cucinare il biscotto. Nell'ultima World Cup recente, sì, la Serbia ha giocato 2 partite, una delle quali contro l'Italia, con le 6 riserve, dei ragazzi giovani di 17-18 anni. Quando ha giocato contro il Brasile ha schierato la formazione principale, provando a vincere, perché l'eventuale qualificazione di più europee diminuiva la possibilità di incontrare squadre forti nel torneo continentale, quindi c'era un evidente vantaggio da parte della Serbia a vincere contro il Brasile. Ora, questo non è un biscotto, non è nulla di particolare, è il fatto di gestire le tue possibilità per avere il maggior vantaggio possibile. Certo. Però nella pallavolo hanno cambiato prima il quoziente punti, perché così non puoi controllare quello che succede. Poi hanno cambiato il punteggio, adesso sai che anche nella pallavolo c'è i 3 punti in caso di vittoria per 3-0, sì, 3-1, sì, sì. E questo rende meno facili i calcoli, perché in alcuni casi è veramente inaccettabile. L'anno scorso, 2010, al Mondiale in Italia, Brasile e Bulgaria hanno giocato a perdere. Lo ricordo bene, ne abbiamo parlato. Hanno giocato a perdere perché la formula piuttosto bizzarra è fatta per dare una possibilità in più all'Italia di arrivare nei quarti di finale, faceva sì che convenisse perdere perché si trovava un avversario più debole. Sicuro. Queste sono le situazioni... Certo, caro Andrea, stasera nessuno giocherà a perdere in Real Madrid-Barcellona. Mi sa che la guardi anche tu, eh? Sì, la guardo anch'io. Devo dire che sono poi... Tifando per? Io sono del Barcellona. Barcellona. Riconosco i grandi meriti di Mourinho, ma non mi è simpatico. Non mi è simpatico né lui né Cristiano Ronaldo. Allora, nemmeno Cristiano Ronaldo neanche a me, Mourinho un po' di più, come gli ascoltatori sanno bene, infatti la lunga diatriba credo continuerà anche oggi al telefono. 800240024, poi ci sentiamo verso mezzanotte, visto che la partita è alle 10 e chi vince spernacchia l'altro, insomma. Caro Carlo, una delle ragioni per cui a te piace molto Mourinho è che, facendo il giornalista, sì, è una dici situazione di comodo, no, ma insomma è un personaggio che a me devo dirti è piuttosto simpatico. Cosa ci posso fare, cosa ti posso dire, sarà una mia debolezza, non sono neanche interista, tu lo sai, però Mourinho è uno che comunque, al di là dei titoli che ti dà tutte le volte, ieri non ha neanche parlato, e questo è un titolo a prescindere, perché manda Caranchi in conferenza stampa alla vigilia della partita che tutto il mondo vuol vedere. Secondo me è un errore, perché per correttezza si sarebbe dovuto presentare davanti a quel microfono, però sono strategie anche queste, insomma. Sì, sono anche strategie. Anche Lady Gaga, la più famosa del mondo, e che sia la miglior musicista, magari da vedere. Magari parliamone. Esatto. Andrea, ti ringrazio, spero che tu sabato riesca ad essere qui. Un abbraccio a Numa e allo Shaolin, sì, e a tutti, sì, i partecipanti di questa finale di Shaolin. Ci sarò. Grazie. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao Andrea Zorzi. Ci fermiamo per il traffico, 800 24 00 24. Subito dopo le informazioni dalle strade vi do anche lo splendido risultato della Benetton Treviso di rugby, chiesto peraltro a gran voce da alcuni ascoltatori via SMS. Vediamo se anche oggi che sarete in giro magari per le compere natalizie vi svegliate al telefono 800 24 00 24 a schema libero, come sempre, per parlare di tutti i temi sportivi che questa settimana ci ha lasciato e ci sta lasciando sul piatto. C'è chi scrive, e qui non sono così d'accordo, almeno, ma sono gusti personali. C'è chi scrive: la Pellegrini mi ricorda i primi vagiti da star mediatica di Valentino Rossi, e questo la rende simpatica, fa molto bene per tutto il movimento del nuoto. Soltanto che per quanto riguarda Valentino Rossi si parlava delle sue bizzarre esultanze, del suo enorme talento, cosa che vale anche per Federica Pellegrini. Quando invece si va nel gossip più vero, allora insomma, a me la simpatia un po' scema. Però vi dicevo della Benetton Treviso di rugby, che oggi ha conquistato la prima vittoria italiana per le nostre in questa edizione in Heineken Cup. Anche questa è cronaca, e anche di questo naturalmente è giusto rendere conto, perché la Benetton ha battuto 30-26 i francesi del Biarritz, quindi prima vittoria appunto per il nostro rugby in Heineken Cup, che lo ricordo è la Champions League della palla ovale. Vorrei tornare a parlare con voi e magari con, ecco, l'ospite che stavo aspettando, che è Paolo Condò, penna illustre della Gazzetta dello Sport, che è di stanza in Spagna in questi giorni. Lo saluto subito, ciao Paolo. Ciao Carlo, buongiorno a tu, buonasera a tutti. Buonasera a te. Prima parlavo con Andrea Zorzi, insomma, di gusti personali. Lui stasera ti farà Barcellona, io Real Madrid. A me Mourinho è simpatico. Dico anche però che ieri, non presentandosi in conferenza stampa, ha fatto un errore, pro domo sua, ma un errore, perché tutto il mondo voleva sentirlo parlare alla vigilia di questa sfida. Non so come la pensi tu su questo discorso della strategia di Mourinhesca, peraltro anche prevedibile, se vogliamo, perché io Caranca me lo aspettavo. Sì, me l'aspettavo anch'io, mancava da un po' e questa era l'occasione giusta per stupire rispolverando il vice allenatore. Sono dei giochi scacchistici fra questi due allenatori. Guardiola si era assicurato il diritto di replica convocando per la serata di ieri l'ultimo allenamento e quindi la seguente conferenza stampa, e Mourinho ha evitato di dargli materiale non presentandosi alla conferenza. Comunque è meno grave la cosa rispetto alla stagione passata, perché quest'anno Mourinho sta adottando un low profile, sì, nel confronto col Barcellona e in generale nella gestione della panchina del Real Madrid, e quindi credo che se anche fosse andato in conferenza stampa non avrebbe appizzato, sì, il fuoco che vedremo stasera se è definitivamente spento. Tu che fuoco ti aspetti? Io mi aspetto una grande partita, naturalmente, una grande partita, come normale che sia, se tu pensi che tra campo e panchina ci saranno 25 dei migliori 35 giocatori del mondo, certo, questa sera, ecco, e quindi mi aspetto una grande partita. Sono tutt'altro che convinto, come invece la maggioranza degli addetti ai lavori, che il Real Madrid vincerà facilmente, perché il pronostico pende da tutte le parti per il Real Madrid, però io, anche per rispetto verso i campioni in carica, voglio vederli battuti prima, sì, di dire sicuro che sono stati sorpassati, perché secondo me il Barcellona giocherà una grande partita. Però ammetti che questa è la settima del 2011 ed è quella diversa, ed è quello diverso di confronto tra Real e Barcellona, perché è in questo confronto che hai la sensazione che il vento sia cambiato. Secondo me la sensazione del vento cambiato è data dalla concentrazione massima con la quale il Real Madrid ha affrontato i primi tre mesi di campionato. Sì. Sono successe delle cose nello spogliatoio del Real Madrid, ci sono stati dei confronti anche molto duri fra Mourinho e alcuni giocatori, e soprattutto per la prima volta nella storia fra alcuni giocatori e Mourinho. Oggi il País ha pubblicato per esempio un retroscena che io in parte conoscevo, avevo già scritto, ma certo non con le parole esatte. E, dopo il secondo, dopo il ritorno della Supercoppa ad agosto, che è stato il momento massimo proprio dell'astio e dell'odio fra i due campi, c'è stato un intervento di Casillas in qualità di capitano della nazionale, è stato un intervento di Casillas con Xavi e Puyol per vedere di ricomporre una guerra che stava proprio minando dall'interno la nazionale spagnola, la stava distruggendo. Sì. E il tentativo andò a buon fine perché Xavi e Puyol riparlarono con Casillas, e, del quale sono vecchissimi amici, e quindi i rapporti vennero riallacciati. E nel seguente allenamento Mourinho, davanti a tutta la squadra, attaccò duramente Casillas per aver fatto questa cosa e disse: io vi ho ordinato di rompere tutti i rapporti con i giocatori del Barcellona, perché soltanto in questo modo li odieremo abbastanza per poterli battere. E Casillas non stette zitto, c'è scritto sul País di oggi, le parole esatte sono: questa è l'ultima volta che mi lanci merda davanti a tutti i miei compagni di squadra. Io sono fedele al Real Madrid e al suo allenatore, ma non per questo devo odiare i miei avversari del Barcellona. Quello fu un momento chiave. Certo. Com'è? Certo, no, ma ti sto ascoltando con attenzione. Quello fu un momento chiave nella stagione del Real Madrid, perché di lì in poi, oltretutto, ci furono due partite, una sconfitta e un pareggio contro Levante e Racing Santander, due gare che sulla carta non dovevano certo procurare dei problemi. Mourinho attaccò Khedira in quell'occasione, nell'occasione della sconfitta del Levante, dicendo che era stato lui il responsabile, e la parte spagnola dello spogliatoio, Casillas, Sergio Ramos e Xabi Alonso, invece affrontarono a muso duro Mourinho e riguadagnarono un potere che era stato perso dentro lo spogliatoio in favore della componente portoghese barra Jorge Mendes, il potente procuratore di Mourinho, di Coentrao, di Cristiano Ronaldo, dell'argentino Di Maria, di Carvalho, di Pepe, questi giocatori qui. E da lì in poi il Real Madrid non ha più perso un punto. E questa è stata considerata la chiave, appunto. Possiamo dire la normalizzazione di Mourinho, Paolo, trasformato da capopopolo ad allenatore di calcio? Esatto, ed è un grandissimo allenatore. Certo. È un grandissimo allenatore che probabilmente ha pensato, e che con grande intelligenza ha capito subito che lo spogliatoio del Real Madrid era diverso da quelli delle squadre che aveva precedentemente allenato, Inter, Chelsea, Porto. Era diverso, c'è una storia diversa dentro questo spogliatoio, ci sono delle personalità diverse, e lui, anziché andare allo scontro con Casillas, forse ricorderai che venne messo una volta in panchina Casillas, in una partita, e quello fu probabilmente il momento più caliente del confronto, anziché andare allo scontro lui è stato prontissimo a rigirare a suo favore questa accettazione di responsabilità e di personalità da parte della squadra, e di lì in poi non ha più perso un punto. Paolo, io ti ringrazio davvero, è sempre un piacere parlare con te. Molto bene, buon divertimento anche a lei, professore. Grazie a Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport. Mi sembrano temi estremamente interessanti di cui mi piacerebbe discutere con voi. 800 24 00 24, numero verde, perché questa è la chiave di lettura vera, non inedita, perché sono discorsi che comunque abbiamo già sentito e abbiamo già fatto, però davvero quell'episodio, quello scontro nello spogliatoio, Mourinho che si trova ad avere a che fare non con, con gente, con personalità e con giocatori che avevano, come è capitato all'Inter, la scimmia della Champions League, ma con campioni del mondo, con giocatori che avevano anche dei titoli, come, a partire da Casillas, da sventolare insieme a quelle parole che avete sentito riportate da Paolo Condò sotto il naso dello Special One. 800 24 00 24, Maurizio da Grosseto, primo di oggi. Buongiorno. Ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Dimmi tutto. Ma dopo che è partito Mastro Paolo Condone, estremamente credo non ci sia altre parole da Ma tu come la vedi? Come la vedi questa storia? Ma io credo che veramente qualcosa sia cambiato sotto questo punto di vista, sembra abbastanza evidente questo fatto, anche perché lui evidentemente in questo momento è diventato veramente allenatore nel vero senso della parola. A me non mi ha mai fatto impazzire anche nel modo di giocare di Mourinho fondamentalmente, però in questo caso quello che ha fatto in Spagna nell'arco di questo anno e mezzo, di questa porzione di campionato, e stasera si gioca una fetta evidentemente importante, oggettivamente importante. Del campionato, e sta dimostrando veramente di aver fatto qualcosa a livello psicologico, lui che è molto egocentrico, lui che è molto bravo ad far tirare l'attenzione su di sé, a prendersi come al solito ovviamente tutte le responsabilità del caso, come ha fatto nell'Inter, come ha fatto con i giornalisti, come ha fatto con il pubblico in senso generale. Alla fine, Maurizio, all'Inter c'era bisogno di un capopopolo, di un fulcro della società, e in queste poi, nelle ultime due stagioni anche gli interisti sono resi conto del fatto che con la partenza di Mourinho un po' tutto il resto sia crollato, quindi c'era bisogno di un ruolo di questo tipo, proprio da condottiero, da capopopolo vero. E anche da uomo società. Al Real Madrid invece c'è una struttura diversa, ci sono giocatori diversi, c'è uno spogliatoio profondamente diverso, lì serviva un allenatore. E sul fatto Mourinho può essere simpatico o meno, però credo non sia in discussione la sua grandezza di allenatore, anche nei confronti dei detrattori onesti, cioè non lo possiamo considerare un ciarlatano o un uomo molto fortunato che ha sempre allenato squadre di grandi campioni. Mourinho è un grande allenatore, penso che su questo si possa essere tutti d'accordo, almeno si vuole parlare onestamente, no? Però l'attributo, il discorso che magari in questo momento proprio esce fuori, allo scoperto in questo momento, è che abbia fatto proprio una metamorfosi su questo. Cioè, noi non pensavamo che fino ad oggi, pur abbia vinto tanto, pur non abbia mai brillato nel gioco, più non sia mai stato simpatico sotto tutti i punti di vista, però che in questo momento abbia avuto proprio una metamorfosi in senso assoluto e stia dimostrando veramente di essere un grande. Cioè, paradossalmente la consacrazione di Mourinho, guarda a che punto siamo arrivati. Grazie Maurizio da Grosseto, 800 24. Grazie. 800 24 00 24. Adesso mi fermo un attimo e poi torniamo insieme anche per parlare di quell'altro caso di questi giorni, no? Ci sono parole di Galliani, che è quello di Tevez al Milan. Ma ci va o no? Il Milan deve scucire il grano, e Galliani oggi lo ha detto, insomma, giochiamo a carte scoperte. Tevez lo vogliamo, però questi vogliono i soldi, c'è il Paris Saint-Germain, ho parlato con Leonardo. Ma questo interesse è vero, e il Paris Saint-Germain ha subito i dobloni da mettere sul tavolo, cosa che il Milan vorrebbe evitare di fare. E torno anch'io per continuare a parlare con gli ascoltatori, la cosa che preferisco. 800 24 00 24, numero verde, Valeria Bernardi in regia, cosa ridi? Mario, provincia di Milano, buonasera. Buonasera Carlo, è sempre un piacere parlare con lei, soprattutto del buon vecchio Mourinho. Sì. Qui abbiamo delle opinioni, abbiamo già parlato altre volte, abbiamo delle opinioni leggerissimamente contrastanti. A lei sta sulle palle da morire? Sulle palle no, però diciamo che non è che ci siamo tolti un grande peso qua in Italia. Il discorso che faccio io è... Quello che dico io sono due cose semplicissime, e io penso che siano pochissime le persone che pensano... Mario, ma secondo lei Mourinho è un grande allenatore o è un cialtrone? No, quello che stavo dicendo, sono pochissime le persone che dicono che, secondo me, ho sentito in giro, pochissime le persone che dicono che sia un cattivo allenatore. Quello che mi dà fastidio è che ci siano delle persone che prendono, secondo me, la sua maleducazione e i suoi diciamo atti inopportuni come strategie. E questo magari è quello che, tra cui diciamo ci scontriamo. No, lo so Mario, però sono strategie condivisibili o meno. Però poi sugli atti di maleducazione non bisogna limite, no, naturale, tutto, però sugli atti di Mario, sugli atti di maleducazione non si può transigere, ma nessuno lo giustifica quando è stato maleducato, come quella fesseria del dito nell'occhio del vice allenatore del Barcellona, che pagherà per tutta la vita, peraltro, perché ha fatto un gesto di una antisportività unica, è stato perdente in quell'occasione Mourinho. Ecco, in quell'occasione Mourinho è stato perdente, la frustrazione del perdente è stata quella. È stato messo in riga dallo spogliatoio del Real Madrid e si è dimostrato in quello che è successo dopo, oltre che un grande allenatore, anche uno furbo, un intelligente, nel senso che ha sfruttato, se ne parlava prima con Paolo Condò, questa situazione per defilarsi in qualche modo o per cambiare strategia. Poi sul fatto che sia uno presuntuoso, spesso maleducato, siamo tutti d'accordo, Mario, non lo sto giustificando. Diciamo anche il fatto, per esempio, quando lei a volte si è lamentato che ci sono alcuni allenatori, anzi troppi in Italia, che quando finisce una partita in conferenza stampa dicono le solite cose. Io mi permetto di dire una cosa: il calcio è un gioco semplice, composto da, mi corregga se sbaglio, una ventina di regole, sì, o poco più. Sì. Quando finisce una partita, ma cosa si deve dire? Abbiamo giocato bene, siamo stati bravi a bloccarle sulle fasce, siamo stati corti, gli abbiamo impedito di ripartire. Cioè, le cose che si dicono quando finisce una partita sono quelle. Non è che ci va un astrofisico nucleare quando finisce una partita per spiegare qualche cosa. No, quindi la moralità, no, secondo me, fa parte di quello che succede in campo. Cioè, sì, 22 giocatori in calzoncini che rincorrono un Mario pallone. D'accordo, però dato che il calcio è un gioco estremamente semplice, e qui siamo perfettamente d'accordo, e questa è la sua forza, e questa è la sua forza vera. Non è un gioco estremamente semplice, ma è tutt'altro che banale. Quindi in tutta onestà, un po' più di coraggio, di dialettica, magari di polemica giustificata, se esiste, che non siano le solite cose sugli arbitri. Bene, quello a me piace, ma mi piace nel calcio come in tutti gli altri sport. Non è detto che parlando dopo la partita si debba essere per forza banali. In alcuni casi capita, in alcuni casi è saggio esserlo, in altri casi si potrebbe osare qualcosa in più. Questo è il mio pensiero. A me i personaggi piacciono e Mourinho è certamente un personaggio, non è l'unico nel mondo dello sport, ma è merce abbastanza rara. Cristian da Monza, buonasera. Buonasera, signor Genta. Senta, una breve considerazione su Mourinho volevo fare. Sì. Al di là dell'aspetto caratteriale, che può meno interessare proprio per quanto riguarda lo show mediatico, sì, a me non piace onestamente tecnicamente, ma proprio con un gusto personale, sì, diciamo per quello che poi lui apporta al calcio. Mi sembra un po' alla Cappello, mi sembrano quasi dei professionisti in guanti bianchi che arrivano, spremono la squadra e non costruiscono nulla, ottenendo dei grandissimi risultati, per l'amor di Dio. Personalmente amo più, non so, il Guardiola assolutamente, che fa giocare Barcellona in una maniera incredibile e inserisce comunque qualcosa che arriva da casa, sviluppa la cantera. Ma che quello, però, lei... Ancelotti che inventa l'albero di Natale, mette Pirlo, sì, come centrocampista davanti alla difesa, mi piace chi costruisce, sì, sì, chi fa, sì, diciamo, il professionista, sì, sì, in tutto tondo, è un grandissimo motivatore, ma tecnicamente secondo me ci sono degli allenatori molto superiori, ovviamente, che hanno vinto di meno. Sì, è chiaro che è più bello il Barcellona del Real, dica. No, ma chiaramente è una cosa su cui disquisire. Poi, cioè, secondo me, a me piace più vedere chi costruisce qualcosa, oltre che come calcio, che come filosofia, e sviluppa anche un discorso di giovani, piuttosto che chi prende in mano la macchina migliore da 200 milioni di euro, la sa motivare alla stragrande, la fa giocare come, sì, non so, il Crotone, per esempio. Insomma, c'è da togliere. Beh, insomma, sarebbe un discorso lungo, io credo. Intanto vi do un risultato, e farò presto a darvi, invece poi le rispondo a Cristian da Monza. Federica Pellegrini, quarta nella finale europea dei 400 in vasca corta, dunque non c'è podio per Federica, gara che si è conclusa proprio in questo istante. Quello che dico io è che certamente il Barcellona è più bello del Real Madrid, certamente il Milan di Sacchi ce lo ricordiamo tutti più di quanto l'abbiamo apprezzato tutti, più di quanto non abbiamo fatto con il Milan di Capello, che pure ha vinto moltissimo, anzi di più certamente in Italia. Quello che dico io è che bisogna essere bravi anche a pilotarla la macchina da 200, 400 milioni di euro, quello che è. Il calcio di Mourinho è un calcio estremamente pragmatico, è un calcio estremamente pratico. È un calcio, se vogliamo, esteticamente non bello, però è un calcio estremamente produttivo, redditizio. Poi gestire comunque uno spogliatoio di quel tipo, un ambiente di quel tipo, mi riferisco non solo al Real Madrid ma alle grandi squadre, è qualcosa che non tutti sono in grado di fare. Insomma, ci sono molte sfumature che mi portano a dire che comunque Mourinho è un grande allenatore di pallone. 800 24 00 24, numero verde. Vorrei però parlare di un grande giocatore di pallone, o presunto tale, perché secondo me, e l'ho detto molte volte, è un giocatore un po' sopravvalutato, e certamente dal carattere difficile, anche un giocatore che ha sempre inseguito più il denaro rispetto agli obiettivi strettamente calcistici, che è Carlos Tevez, che è l'uomo di questi giorni, di questo periodo prenatalizio, perché i tifosi del Milan si aspettano proprio questo grande regalo, un grande regalo estremamente costoso. Oggi ne ha parlato, senza troppi peli sulla lingua, Adriano Galliani con Sky, del caso Tevez, dell'interesse del Paris Saint-Germain, del fatto che gli arabi che guidano il City saranno anche estremamente ricchi, ma non sono fessi. E adesso volete Tevez? Dateci il grano. Galliani. Beh, la situazione che sapete tutti e che tutti voi, le altre televisioni, i giornali hanno ben delineato. Cosa? Il Manchester City desidera cedere il giocatore a titolo definitivo, noi abbiamo fatto a loro invece un'offerta che riguarda un prestito con un diritto di riscatto, ma il Milan è una grande squadra, se un giocatore fa bene poi lo riscatta, e quindi questo lo sanno bene anche al City, quindi noi speriamo che il City possa accettare questa nostra proposta, appunto, ripeto, è quella che sapete tutti. È vero che c'è il Paris Saint-Germain in corsa per un'acquisizione definitiva, io ne ho parlato anche con Leonardo, quindi è inutile tenere misteri e segreti. Vedremo, il giocatore sembra preferire noi, però non inutile che da adesso faccio la radiocronaca o telecronaca giorno per giorno. Io credo che sarà una cosa lunga, che non si concluderà in pochi giorni, né per l'una né per l'altra squadra o per eventuali terzi. Per forza sarà una cosa lunga, almeno il Milan spera sia una cosa lunga, perché i termini della questione sono piuttosto chiari. Allora, Paris Saint-Germain dice: vogliamo Tevez, ecco 30 milioni. Il Milan dice: no, vogliamo Tevez, datecelo gratis, poi riscattiamo per 22, 23, 24, quel che sarà. E adesso bisogna vedere come la vede, come la pensa Tevez. Chiaro che per un giocatore normale e a parità di ingaggio, perché poi di questo si parlerà, sarebbe più conveniente andare a giocare in un club come il Milan, che comunque fa la Champions League, che è un grande club, piuttosto che in una squadra in ricostruzione come il Paris Saint-Germain. Però, come detto prima, Tevez è un personaggio, un giocatore un po' particolare, che ha sempre inseguito più volentieri la scia del denaro, e la sua carriera la conoscete, che non quella degli interessi esattamente sportivi. C'è chi manda un messaggio, tifoso del Verona, che scrive: stiamo ripassando la matematica, 8-3 uguale 24, 8 vittorie consecutive con quella di oggi per il Verona, che si è arrampicato, l'ho detto prima, al secondo posto della classifica. E poi c'è chi scrive: quarta Federica Pellegrini? Sì, quarta, signori. Vediamo se la prima donna abbassa un po' le orecchie. Questo il messaggio di un ascoltatore anonimo. 349-238-6666. Marco, Roma, buonasera. Sì, buonasera, gente. Io volevo parlare un po' su Mourinho. Parlerei volentieri se sentissi cosa dice, perché la comunicazione è molto disturbata, però proviamo a ripristinare il collegamento. Mi sembra di parlare con lo Space Shuttle. Jacopo da Milano, buonasera. Sì, buonasera Carlo, mi sente? Ci provo, sì. Un po' meglio, non è lo Space Shuttle, ma è un cellulare. Io non sono un grande esperto di calcio e quindi mi confermo su Mourinho uomo e dirò un'eresia. Io ricordo che il primo anno che venne all'Inter, verso metà campionato, poiché non riuscivo a portare i risultati che tutti si aspettavano dal grande Mourinho, durante una domenica sportiva Mourinho disse: mi sono reso conto che il calcio di Mancini era forse più producente di quello che ho messo in piedi io, e pertanto ridisegnò la squadra come aveva fatto Mancini. Questo non è un mistero, lei dice, vuole parlare del Mourinho uomo, però dice una cosa tecnicamente verissima e tatticamente verissima: Mourinho vinse il primo scudetto usando l'Inter di Mancini, il suo primo scudetto all'Inter. Ah, mi scusi. Dica. No, dicevo, in quel caso ha dimostrato un po', come ha detto Correal, di saper leggere la situazione e riadattarsi a quello che era il contesto. Quindi poi, verissimo quello che dice lei, ha preso in mano la società, però secondo me forse in quel caso, come adesso Real, ha dimostrato addirittura di essere un po' meno arrogante di quello che lascia apparire. Ma perché gli conviene così, naturalmente, perché in questo momento, per tutte le ragioni che stavamo dicendo prima, si morde la lingua, non ha abbassato i toni, è diventato tutto sommato un allenatore mediaticamente normale. Ma perché tutto da ricordare, si ricorderà la prima conferenza stampa di Mourinho all'Inter, no? Quello che disse. Jacopo? Sì? Se lo ricorda, no? Quel non sono mica pirla. E quella è la chiave di tutto. Sì. Ma perché? Perché ha capito qual è la situazione. Con l'Inter aveva ridisegnato, aveva riportato l'Inter di Mancini, sapeva giocare in quella maniera, lo faceva benissimo. Era la squadra più forte fisicamente, tecnicamente, come organico. Ha detto, devo vincere lo scudetto, benissimo. Bando alle ciance, gioca la squadra disegnata da Mancini e poi ne parliamo. Nel secondo anno ha costruito una squadra più simile alle sue idee ed ecco che con l'Inter ha conquistato ciò che ha conquistato. Oh, sia chiara una cosa una volta per tutte, io sono tutt'altro che felice della sconfitta di oggi di Federica Pellegrini, mi dispiace da morire, io tifo con tutte le mie forze per questa straordinaria campionessa che porta la bandiera italiana e sta facendo la storia del nuoto italiano. No, perché Luca da Pescara scrive: anch'io sono felice della debacle della Pellegrini alle Olimpiadi, ti farò contro. Questo mi sembra un atteggiamento infantile, tutto sommato. È una grandissima campionessa, è italiana e quando scende in vasca io tifo per lei con tutte le mie forze. Poi su quello che sta intorno a Federica Pellegrini, ecco, l'unica cosa che mi auguro è che tutto quanto si è creata intorno non le rovina la carriera, o quantomeno non le tolga delle medaglie che potrebbe conquistare. Questa è la mia preoccupazione vera. Lina da Milano, buonasera. Buonasera. Io devo dire che adoro Mourinho, cioè io sono interista, ci ha reso felici. Grazie, interista. Felici quell'anno, che peccato che quando io ho visto la partita della Coppa dei Campioni che aveva la bandiera del Portogallo, che se n'è andato con quello lì, con il presidente del Real Madrid, mi ha fatto stare male. Male, perché se ne andava, ha capito? E quindi io aprivo questo il giornale, so, mi divertivo a leggere le cose di Mourinho, perché ha dato tanto da fare ai giornalisti, tanto lavoro in quell'anno a Milano. Guardi Lina, tanto lavoro o poco lavoro, perché con Mourinho il titolo era assicurato, non c'era da arrampicarsi sui vetri. Sì, vero, però ci ha reso felici. Ora io quando apro il giornale non leggo più Mourinho, insomma, le manca tremendamente. Poverino, non sa dov'è. Adesso ha buttato la spugna, perché? E ha detto basta scudetto, non possiamo più. Vabbè, magari ha buttato la spugna, basta leggere la classifica, Lina, abbia pazienza. Cioè, non è Ranieri che ha buttato la spugna. Disperata, ci puoi immaginare. Guardi, lei sa benissimo, uno degli argomenti di cui parlerò tra poco con l'ospite, che è un amico che ci sta aspettando, è proprio questo. Insomma, i cicli sono come il Natale di certe pubblicità, la fine dei cicli, quando arriva, arriva. È finito anche quello del Manchester United in maniera forse ancora più traumatica di quello dell'Inter, che si è lentamente spenta, che è una squadra da rifondare, ma da quella notte che lei citava, no? Quella in cui Mourinho se ne andò sulla macchina del Real Madrid con una caduta di stile pazzesca, e questo possiamo dirlo serenamente, perché non sta né in cielo né in terra, ma non voglio tornare su questi argomenti qui, però è cronaca ed è chiaro. Non si festeggia in quella maniera una Champions League con l'allenatore che va via dopo la partita, con Milito che dice quelle cose, con una Coppa dei Campioni che entra nello stadio di San Siro all'alba del giorno dopo, uno stadio di San Siro pieno, senza allenatore che è andato via con quegli altri, senza il presidente che ha le sue grane. Insomma, quello è stato il gesto peggiore di Mourinho, insieme al dito nell'occhio di qui sopra. Massimo Callegari da Mediaset, buonasera Massimo, grazie, ciao. Ciao a voi, buonasera. Dicevo che la fine del ciclo quando arriva, arriva, come il Natale di certe pubblicità. E sto parlando del Manchester United, che mi pare la più grande, scioccante, se vogliamo, sportivamente, è ovvio, notizia stagionale, perché andare fuori in quel girone ed in quel modo vuol proprio dire che insomma, che un ciclo è finito nella maniera più traumatica possibile. Sì, però a differenza del ciclo attuale dell'Inter, che sta finendo anche quello in maniera molto chiara, o di quello del Milan, no? Che più che finire in maniera così netta si è trascinato per un po' di anni. Qui mi sembra che ci sia comunque la consapevolezza che si può anche anticipare un po' la fine del ciclo e si può già lavorare per il futuro, nel senso che ci sono dei giovani come Jones, come Smalling, come i due brasiliani Fabio e Rafael e altri che sono lì e sono in prova, e bisogna vedere poi se saranno all'altezza di rilevare quelli che adesso stanno facendo questo ciclo. La vera sorpresa secondo me è che in altre edizioni della Champions, nella prima fase, Ferguson aveva fatto tanti esperimenti, aveva rischiato molto di più. Qui ha schierato quasi sempre i migliori al di là di qualche infortunio ed è uscito. Questa era la differenza più clamorosa e più netta. Massimo, invece parlando delle nostre ricchezze, perché se questa edizione Champions League ha segnato tutto sommato il tracollo quasi del calcio inglese, noi ne mandiamo tre, con il Napoli che alla fine, a conti fatti, è la portabandiera del calcio italiano in Europa, in un girone pazzesco, è riuscita a passare il turno ed è quella che ha conquistato più punti. Sì, è vero. Ti sorprende questo? Sì, in maniera veramente clamorosa, perché quest'estate mi sembrava veramente un'impresa al limite dell'impossibile, invece è maturata con una consapevolezza che tutto sommato è stata creata anche dalla serata di Monaco in cui il Napoli ha perso, rimettendoci poi anche in campionato, però è stato utile quel KO per come il Napoli poi ha affrontato le gare successive. Devo dire che con tutti questi complimenti, queste considerazioni positive, bisogna ricordarci dell'anno scorso, siccome adesso si parla soprattutto per l'Inter che è arrivata prima di autostrada negli ottavi, siamo usciti l'anno scorso con lo Shakhtar contro la Roma, col Tottenham contro il Milan e con lo Schalke contro l'Inter. Fai bene a ricordare che anche l'anno scorso ne avevamo portate tre dall'altra parte della barricata e poi sono cadute subito all'ostacolo successivo che quando c'erano stati i sorteggi, ti ricordi tutti a fare la ola perché comunque sembravano ostacoli bassi o medio bassi e invece li siamo inciampati, quindi il grande salto sarà quello che ci attende, cioè quello degli ottavi di finale. È anche vero, Massimo, per chiudere, che il successo del Napoli è stato anche un fallimento non eclatante come quello dello United, però piuttosto netto del City di Mancini. Sì, secondo me, guarda, per alcuni aspetti addirittura di più, nel senso che la disponibilità economica in questo momento del Manchester City è enorme, anche in relazione a quella del Manchester United, che anni fa spendeva moltissimo, ora continua a spendere, ma non così tanto, e purtroppo perché è un allenatore italiano e comunque ha saputo inserirsi bene dopo le difficoltà iniziali di Real City, devo dire che Mancini ancora una volta in Champions, nelle partite decisive come gli succedeva quasi sempre con l'Inter, ha fallito, e la partita di ritorno con Napoli è stata giocata in una maniera veramente incomprensibile, perché sembrava che Mancini non avesse mai visto giocare il Napoli. Io leggevo addirittura 700 passaggi del City e 300 del Napoli, però tante più occasioni per il Napoli. Ma gli ha fatto un mazzo così, da ogni punto di vista, a partire dall'intensità, dall'agonismo, ma anche sul versante tattico, cioè in quella gara la vittoria più importante, più eclatante, più evidente è stata quella di Mazzarri su Mancini, sono convinto di questo. Massimo, per chiudere ti chiedo un pronostico secchissimo, visto che abbiamo ancora 20 secondi, sul classico di stasera, così ti metto in difficoltà e ti faccio fare una figuraccia. Esatto. Vale dire vinci chi segna per primo? No, dai, poco. Vince poco. Questa sera vince il Real Madrid 2-1, poi domani credo che vinca il Real Madrid. Credo che vinca il Real Madrid, però se non vince neanche questa sera, non vince il Barça torna a essere il grande favorito della Liga, cosa che al momento non è. Sicuro, cambia di nuovo il vento in maniera radicale. Grazie a Massimo Calegari, a tutti voi, torniamo con lo sport domani pomeriggio alle 4:30. Grazie a Valeria Bernardi in regia, Giorgio De Luca in redazione. Buona serata.